Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Mattino. Mia moglie insegnante ieri ha saputo dalla dirigente che c'è un allievo dell'istituto che è affetto dal Covid. Non hanno voluto dire chi era per motivi di privacy e su sollecitazione hanno detto che il giorno dopo avrebbero detto qual era la classe. A voi sembra una cosa normale? Mia moglie è nel panico totale e io, che sono libero professionista, non so cosa fare. Devo andare da qualche altra parte ad abitare? Non dobbiamo dare la colpa agli italiani, non dobbiamo però nemmeno dare la colpa al governo, perché gli italiani lo sanno che c'è il Covid, lo sapevano che c'è il coronavirus che gira anche d'estate, anche sulle spiagge. E ci siamo dimenticati di questo fatto, quindi un po' per uno la colpa, eh? No, ma guardi, io devo dire la verità, non è che dia colpe, non è che qua ci mettiamo a dar colpe, anche perché di valutazioni fatte all'inizio di questa pandemia, poi rivelatesi fallaci, ne siamo pieni tutti quanti, ciascuno di noi personalmente, molti altri di noi pubblicamente, nel governo, nelle regioni, nei comuni, tra i singoli politici, tra noi giornalisti, figuriamoci, eh. Come ricorderete, l'anno scorso, o meglio l'anno scorso, nella stagione scorsa, a marzo, vi porsi le mie scuse perché avevo sbagliato valutazione, avevo sottovalutato la portata di questo virus. Quindi non mi permetto di dare giudizi troppo forti su questo tema. Diciamo che in generale mi pare, come testimonia anche l'ascoltatore sulla vicenda della scuola, che una certa quantità di impreparazione, di carenza di programmazione, che è un po' il tratto tipico di questo paese, si continui a vedere, molto semplicemente. Il caso del trasporto pubblico locale ne è un esempio lampante, eh? Lo sapevamo perfettamente. Poi inizierà lo scaricabarile, è colpa delle regioni, è colpa dei comuni, è colpa del governo, è colpa del Ministero dei Trasporti, no? Di Palazzo Chigi. Poco mi importa di questo scaricabarile. Fatto sta che non siamo riusciti a programmare un rientro normale, decente. Ancora oggi c'è uno scarico di responsabilità. Ci arriviamo. Sono le 7:21 minuti e 36 secondi di venerdì 16 ottobre e questo è 24 mattino, naturalmente la seconda parte dedicata alla rassegna stampa, come ben sapete. Al microfono sempre Simone Spezia. E diamo un'occhiata alle aperture dei quotidiani, che sono ovviamente molto concentrate su quello che è successo ieri in Campania, su quello su cui si sta ragionando. Inizia la Campania, scuole chiuse, il titolo del quotidiano nazionale. Avvenire, va giù duro contro De Luca, la lezione sbagliata, e questo è il titolo, proprio per la questione della chiusura delle scuole. Il Corriere della Sera ci fa sapere che il governo starebbe ipotizzando un coprifuoco alle 22 su i contagi verso il coprifuoco. La Repubblica, primi lockdown, tocca alla scuola. Natale a rischio lockdown, titola il Messaggero. Le imprese chiedono meglio subito che sotto Natale. Aria di coprifuoco anche secondo il giornale. 15 giorni per sapere o funziona o si chiude, secondo il Fatto Quotidiano. Il virus circola, le regioni chiudono, scrive la stampa. E sulla scuola, Libero dice niente panico, la scuola va. La Campania chiude gli istituti fino al 30 ottobre, eppure solo lo 0,08% degli studenti e lo 0,13% degli insegnanti è positivo. Giusto, stare attenti, non darsi la zappa sui piedi e bloccare tutto, scrive il quotidiano. La verità, Conte accusa gli italiani sul virus e va a prendere ordini a Bruxelles. Si parla del Consiglio europeo. Ci torneremo sul Consiglio europeo. Torneremo sulle questioni delle regioni. Vi do intanto il titolo del Sole 24 Ore, che è il tema con il quale apriamo. Edilizia: lo smart working nella pubblica amministrazione blocca fino al 30% dei permessi. Il 30%. Come vi dicevo, torneremo tra poco sul tema delle regioni e torneremo anche sulla Campania e su Bruxelles con i nostri ospiti, perché alle 7.45 tra poco avremo ospite il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Alle 8.35 sarà con noi Luigi De Magistris, il sindaco di Napoli, e poi il ministro degli affari europei Enzo Amendola alle 8.45. Puntata particolarmente ricca. Ieri alle 8.35 invece abbiamo parlato di pubblica amministrazione e smart working. Vi siete scatenati su questo. Abbiamo sentito la ministra Dadone, abbiamo sentito il professor Sabino Cassese. Se vi siete persi la puntata di ieri, c'è, ve la potete riascoltare. Oppure, se siete interessati solamente all'opinione del professor Cassese, ebbene, trovate sul Sole 24 Ore quella che è in sostanza una trascrizione, una ripresa dell'intervista che abbiamo realizzato con lui ieri. Il titolo è: chi dice che la pubblica amministrazione funziona come prima vive su Urano, parole del professor Cassese. E a testimonianza ci sono i dati che arrivano appunto dal Sole 24 Ore a pagina 3. Il pezzo lo firmano Paola Pierotti e Giorgio Santilli e ci racconta esattamente questo, che i permessi edilizi si sono ridotti del 25-30%, ossia le pratiche si sono sostanzialmente fermate. A Roma i permessi di costruire, il titolo edilizio per eccellenza, hanno subito una riduzione che al momento è del 47% e potrebbe arrivare a un meno 30% alla fine dell'anno. Nel 2019 erano state 271 le licenze concesse, nel periodo gennaio-settembre siamo fermi a 143. La media mensile conferma il calo del 30%. Stesse situazioni a Genova e in altre città, dove anche le autorizzazioni edilizie minori hanno subito una flessione. Le SCIA favorevoli sono passate da 1500 a 1289, i provvedimenti di agibilità da 247 a 178, flessione che il comune per esempio di Genova motiva con un rallentamento per la prudenza degli investimenti. E ricordando che i permessi pesanti invece sono andati a pieno ritmo, ma che in realtà in parte forse potrebbero essere attribuibili esattamente al fatto che gli uffici si sono sostanzialmente fermati o sono entrati appunto in grande difficoltà. Questo per quanto riguarda lo smart working e il Covid, così ritorniamo e rimaniamo un po' su questi temi. Prima però di andare alle questioni di Covid, e ancora una volta vi riproporrò come l'abbiamo presa l'altro giorno, ossia siamo pronti o non siamo pronti? Ebbene, ancora una volta i giornali ci raccontano, le pagine dei giornali ci raccontano che a fronte di tutto questo probabilmente non siamo un granché pronti. Voglio iniziare come sapete il nostro Alessandro Milan ve lo ricorda tutti i giorni o quasi, e però vale la pena anche qua aprire una finestra sul fatto che ci siamo completamente dimenticati dei pescatori spariti in Libia. Quindi meritoriamente la stampa ci ritorna a pagina 13. L'odissea dei pescatori spariti in Libia. I familiari denunciano di essere abbandonati dallo Stato. Ritorna Nicolò Zancan a Mazara del Vallo con il suo reportage. Sono figli perduti. Fabio ha 30 anni e una bambina appena nata, si chiama Aurora. L'ha vista solo 4 giorni prima di imbarcarsi come motorista sulla Antartide, che è il nome della nave. Sono gesti di coraggio che nessuno conosce. Bernardo era a bordo del Natalino quando i libici hanno chiesto ai capitani di scendere sulla loro motovedetta con i documenti, ma visto che il suo comandante non stava bene si è fatto avanti lui. Sono marinai senza più barca né mare, pescatori di gamberoni rossi rinchiusi da 45 giorni in una caserma di Bengasi. Da quella sera, erano le 21 del primo settembre, nulla è cambiato tranne una cosa: nessuno crede più alla versione ufficiale. E il tema è esattamente questo. Dimenticati, forse la Farnesina sta lavorando sotto traccia, esattamente non lo sappiamo. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio, lo ricorderete, era stato ospite qua, ha detto: stiamo lavorando attivamente perché ci sia la liberazione di questi pescatori. Ebbene, ancora non se ne sa nulla, non ci sono dettagli su questo. Per introdurci all'argomento Covid, che poi riprenderemo dopo le... Ah, tra l'altro, scusate, dal Ministero degli Esteri ci comunica la notizia, dove l'ho pescata. Ah, sul giornale, a pagina 14, al Ministero degli Esteri, ieri è successa una cosa bellissima. Se non frequentate i social, forse non l'avete vista, eh. Allora, il Ministero degli Esteri ha fatto un comunicato, e come fa sempre il Ministero degli Esteri lo diffonde anche in inglese. Doveva essere un banale comunicato di soddisfazione del sottosegretario Manlio Di Stefano per gli accordi Artemis sui viaggi nello spazio, per l'esplorazione dello spazio. Ebbene, nella traduzione realizzata dalla Farnesina è diventato Under Secretary of Stefano, cioè è stato tradotto Di Stefano, è stato tradotto con of Stefano, e la cosa ovviamente è rimbalzata un po' su tutti i social. Però per introdurci all'argomento Covid e le occhiute indagini della polizia locale, nella fattispecie di Milano: coppietta multata, vietato baciarsi in pubblico anche tra fidanzati. Adesso iniziamo con il delirio, per favore non iniziamo col delirio delle multe. Ce lo racconta Giordano Tedoldi su Libero a pagina 5. Vietato baciarsi all'aperto, oppure baciatevi a casa vostra. Stavano andando a cena fuori, erano appena usciti di casa, camminavano mano nella mano lungo Corso Sempione, uno avrà stretto la mano dell'altra e si sono baciati, patatrac. Abbassata la mascherina, scambiatosi il bacio, i due riferiscono di essere stati improvvisamente accerchiati da 4 agenti della polizia locale che gli chiedevano i documenti. Gli hanno chiesto i documenti, i due li hanno mostrati, risultavano residenti in 2 case diverse e effettivamente sono fidanzati ma non sono conviventi, e tac, scatta la mazzata da 800 euro. Ovviamente hanno presentato ricorso dopo aver tentato inutilmente, mostrando le foto che avevano sul cellulare, la frequentazione assidua, ma evidentemente agli agenti non è bastato. Scatterà il ricorso, per favore non ricominciamo in questo modo, se no non ne usciamo più. Una pausa. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Voglio precisare, naturalmente, gli agenti che hanno fatto le multe, evidentemente, così rispondo anche all'ascoltatore che lo dice, evidentemente hanno fatto il loro dovere, però ne abbiamo parlato l'altro giorno, forse può trovare una via di equilibrio, a fronte del fatto che quello che si richiede è di avere dei comportamenti dal punto di vista sanitario corretti. Comunque vedremo come finirà questa vicenda. Il grande tema in realtà non sono le multe, non sono le multe ai cittadini che abbassano la mascherina per un attimo per baciarsi, come in quel caso. Il grande tema è: siamo pronti oppure no? No. La risposta semplice a guardare quello che leggo oggi dai giornali è no. Se prendo per esempio il Sole 24 Ore a pagina 8 con Marzio Bartolini e Sara Monaci, ci raccontano che ci sono solo 9.000 tracciatori, cioè le persone che dovrebbero fare il tracing dei contatti dei positivi. Sono solo 9.000. La prima linea di difesa, quella del contact tracing, ormai è caduta, perché tracciare oltre 100.000 casi sospetti al giorno con solo 9.000 investigatori del Covid è quasi una missione impossibile. Nelle regioni ci sono infatti 9.241 soldati, tra virgolette, naturalmente, in questa prima trincea contro il virus. A loro spetta provare a inseguire i contatti dei 7-8 mila contagiati che ormai si registrano ogni giorno. Se si pensa che ogni positivo nei giorni precedenti è venuto in contatto in media con 15-20 persone, ecco che si arriva alla montagna di oltre 100.000 persone al giorno da chiamare al telefono, da registrare, monitorare e nel caso mettere in isolamento. Insomma, come svuotare il mare con un cucchiaio. E così il rischio di farsi sfuggire tanti positivi e nuovi focolai è sempre più una certezza in pratica. Quello a cui si sta assistendo, scrivono Bartoloni e Monaci, è il fallimento del contact tracing. Mi sono tenuto da parte un piccolo brano di questo pezzo dei colleghi del Sole 24 Ore, perché ci torno dopo essere andato su Repubblica. Pagina 6. Pochi medici, app vaccini, le armi spuntate della sanità contro la seconda ondata. È questo il titolo. Il pezzo in questo caso lo firmano Michele Bocci e Alessandra Ziniti. E i fronti sono quelli più volte citati. E però giova ritornarci, perché ricordare che su alcune cose appunto siamo impreparati. Poi lascio lo scaricabarile tra comuni, regioni, Stato, centrale, lo lascio ad altri. Però i fatti che vengono raccontati qua sono questi. Mancano i medici. Possibile che ancora dopo 8 mesi chi ha il sospetto di essersi contagiato corra al pronto soccorso? Non doveva esserci una capillare rete di assistenza domiciliare, una medicina territoriale capace di dare risposte immediate ai cittadini, di fare indagini epidemiologiche e gestire a casa chi non necessita dell'ospedale? Niente di tutto questo. Un numero su tutti: le USCA, le unità speciali di continuità assistenziale, quelle che dovrebbero garantire l'assistenza a casa dei sintomatici, dal tampone alla cura, dovrebbero essere 1200 in tutto il paese, ma sono la metà. E qua vi riporto sul pezzo del Sole 24 Ore, perché cita il caso di Milano, che è esemplare. A Milano e nel suo hinterland, dove ogni giorno vengono registrati oltre 1000 positivi, ci sono solo 14 medici nelle USCA, 14. Il fabbisogno stimato sarebbe di almeno 130 medici per i 3 milioni di abitanti dell'area, e questo vi dà la misura di come stanno andando le cose, cioè c'è il 10% dei medici che sarebbero necessari. Ancora dal pezzo della Repubblica, la questione dei tamponi, che sono pochi e tardivi. Ieri il nuovo record assoluto, quasi 163.000. Ne servirebbero 300.000, dice Crisanti. Germania, Francia, Spagna ne fanno più di noi, il Regno Unito ne fa il triplo, nonostante l'aiuto dei laboratori privati che in molte regioni hanno cominciato ad effettuare tamponi molecolari e test antigenici. Non c'è dubbio che il testing è uno dei punti deboli di tutto il sistema, e a dirlo sono le code lunghe chilometri e le attese fino a 8 ore nei 300 drive-thru italiani. E poi il flop di Immuni. Tra poco magari di questo parliamo anche con il presidente Zaia, con il presidente della Regione Veneto. Quasi 9 milioni di download, ancora troppo pochi, 10.000 notifiche inviate, solo 567 positivi segnalati. E poi, vabbè, il fatto è l'app si può scaricare solo su modelli di cellulare più recenti, e questo lo sapete, questo esclude tutta una serie di persone. In alcune regioni, come il Veneto, la piattaforma non ha mai funzionato. In molte ASL nessuno chiede ai positivi il codice da inserire nell'app per incrociare i contatti. E poi infine i vaccini antinfluenzali, che come sapete, sui quali come sapete manca ancora molto. Intanto il governo ci fa sapere, il Corriere della Sera con un pezzo di Monica Guerzoni, va verso una stretta, e l'idea è quella di un coprifuoco, tutti a casa per le 22, cioè dalle 22 chiude tutto, bisogna rimanere chiusi in casa, con tutta una serie di elementi ulteriori. Il ministro Francesco Boccia ha paventato l'interruzione di attività sociali e culturali a maggior rischio di assembramento. Cosa vuol dire? Palestre, saloni di bellezza, cinema, teatri e, cosa più preoccupante un po' per tutti, lo sport di base, e quindi anche lo sport dilettantistico, chiaramente. Ancora il tema dello scaricabarile. Abbiamo il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Miozzo, al quotidiano La Repubblica, che dice che gli studenti sono pigiati sui bus. È colpa dei comuni, che sono senza piani su questo fronte. Ve la segnalo perché vedrete che questa susciterà qualche reazione, soprattutto da parte dei comuni. Cosa ancora da segnalarvi oggi? Beh, molto rapidamente, sul fronte politico, il fatto che ieri la riforma costituzionale, che era già al terzo passaggio in aula, ha subito uno stop, era quella che prevedeva il voto per il Senato a 18 anni. La legge è stata fermata da Italia Viva per le trattative che stanno andando avanti sul tema della legge elettorale. Ci hanno detto: prima facciamo la legge elettorale e poi pensiamo a questo. Vi segnalo un intervento molto duro di Renato Brunetta sui rapporti con la Lega, tra Forza Italia e la Lega. Augusto parla con Augusto Minzolini a pagina 12 del giornale, inizia in prima pagina, ma vi basti il titolo, eh? Brunetta, i leghisti ci odiano, ora un governo di unità nazionale. L'ex ministro azzurro si appella alla responsabilità della politica e accusa Salvini. Pensa solo a farci fuori. Occhio che anche questa qualche conseguenza politica potrà averla. Infine, fatemi, per così dire, lamentare, se posso, per il fatto che nel 2020 ancora stiamo a discutere, e trovate un'intera pagina sul Messaggero, ancora stiamo a discutere se sia consentito a una premier donna, nella fattispecie, e adesso vi recupero il foglio perché, come al solito, in questa confusione cartacea me lo sono perso, se sia consentito a una premier donna, la premier finlandese, di presentarsi scollata. Ma ragazzi, ma siamo nel 2020, una scollatura era senza reggiseno, quindi la scollatura era ovviamente fino in fondo, non è che si vedesse moltissimo. Sotto attacco per una foto senza reggiseno, scelta inappropriata. I finlandesi la difendono su Instagram, su Twitter sono partite le foto di persone scollate, anche uomini sono fatti la foto scollata in difesa appunto di Sanna Marin. Traffico. Mattino. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, bentornato ai nostri microfoni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come giudica la decisione del suo collega De Luca di chiudere le scuole così ex abrupto, tutte di ogni ordine e grado? Ma guardi, le dirò che non giudico perché non conosco il piano sanitario di sanità pubblica della Campania, non conosco i dati epidemiologici e quindi ognuno di noi, ogni governatore ha in qualità di soggetto attuatore poi decide in base alle condizioni, che ovviamente non prescinde dalla condizione ospedaliera, perché non ho idea di come siano presi gli ospedali in Campania. Lei potrebbe fare una scelta di questo genere se le cose peggiorassero, Zaia? Ma guardi, non si esclude nessuna scelta se le cose peggiorassero. Varrebbe la pena di ricordare a tutti che in questo momento in Veneto non c'è un'emergenza sanitaria ospedaliera, sottolineo in questo momento. Meno di una cinquantina di pazienti in terapia intensiva contro le centinaia di marzo-aprile, circa 380 pazienti negli ospedali contro i 2.400 che avevamo. Però è pur vero che il 97% dei nostri positivi non sono sintomatici. Ai cittadini va spiegato che la vera sfida è quella di evitare di collassare gli ospedali con i pazienti sintomatici e i pazienti che hanno bisogno di cure intensive, perché se così fosse, è il vero rischio del coronavirus, dovremmo sospendere tutta l'attività sanitaria ordinaria. Sì, è quello che diciamo dall'inizio, Zaia, che questo virus, questa pandemia è essenzialmente una questione di sanità, cioè di come, di sistema degli ospedali e quanto regge, cioè anche la misura appunto dei contagiati, da poco l'idea di quello che effettivamente succede, no? Ma è esattamente così, guardi, quando si parla, quando io contestavo alcuni parametri tipo l'R con T non dice nulla perché prende dei parametri non eterogenei di regioni diverse dove si fanno in maniera diversa da testing e tamponi numericamente diversi e quindi non dice nulla. Il vero tema è l'ospedale. Non è un caso che ad esempio il Veneto sia passato da 464 terapie intensive di base a un potenziale di 1016. Io lo dico perché molti si mettono a far conti, a dimostrare i morti dell'influenza, a fare i conti di altre robe, ma questo non c'entra nulla col fatto che se un paziente sta morendo tu lo devi curare, è un obbligo, è un dovere e per questo motivo c'è il rischio poi di collassare gli ospedali. Questa è la vera sfida del coronavirus e tutti devono portare la mascherina. L'1,8% dei miei medici, ne ho 11.000 in ospedale, si è infettato e quindi vuol dire che medici che lavoravano con il virus, nelle malattie infettive, nelle terapie intensive, nelle pneumologie e comunque in ospedale, solo l'1,8% si è infettato perché portavano la mascherina. Senta, Zaia, non è che non voglio stanarla su De Luca perché so che non si fa stanare, la sua idea l'ha già espressa su questo fronte, però a livello generale molti dicono che chiudere la scuola, soprattutto le scuole di gradi inferiori, medie, elementari, asili nido, materne, eccetera eccetera, è l'estrema ratio, no? Lei condivide questa posizione oppure no? Ma è ovvio che tutti noi tifiamo perché la scuola non si chiuda, non si facciano lockdown. Guardi, lo chiede una persona che qualche giorno fa ha annunciato, o meglio, ho chiesto che si valuti l'opportunità di avere un piano per la didattica mista, perché nel momento in cui si dovessero irrigidire i sistemi, nel momento in cui si dovesse avere l'esigenza di calare la pressione demografica sui mezzi di trasporto, negli assembramenti, nei piazzali del trasporto pubblico, piuttosto che fuori dalle scuole o addirittura all'interno delle scuole, una delle soluzioni è la didattica mista. Il che non vuol dire che io tifo perché alternativamente qualche giorno alla settimana ci sia qualche classe, ovviamente di studenti che possono badare a se stessi, quindi non i bimbi, che resti a casa. Però la verità è che anche lì, con gradualità, se va male bisognerà affrontare il tema. Sì, molte scuole tra l'altro già lo fanno, a dir la verità, Zaia. Certo. Su questo. Guardi, io sono stato criticato per questo, vorrei ricordarlo che è nelle linee guida la didattica mista, sì. Si tratta solo di capire se siamo in grado di programmare in maniera tale che, se dovesse capitare il peggio, dovessimo allentare un po' la pressione, si possa attivare con velocità. Guardi, sì. Il tema della scuola è cruciale. Noi in Veneto abbiamo 700-7000 studenti che tutte le mattine vanno e entrano in un'aula, e 95.000 insegnanti e operatori che entrano in quelle scuole, quindi sono 800.000 persone al giorno. Non sono poche come massa che si muove, massa umana che si muove, e sappiamo con certezza che il tema della scuola è il tema nevralgico di questa stagione. Lo abbiamo visto con Israele, dove appunto hanno aperto queste strade e hanno dovuto richiudere subito. Zaia, c'è stata una carenza di programmazione nel complesso, dico. Io vorrei evitare in questo periodo lo scaricabarile tra regioni, comuni, governo. L'impressione è che magari non tutte le regioni, non tutti i comuni, non tutte le parti del governo, però una carenza di programmazione c'è stata, cioè siamo ripartiti un maluccio. Ma guardi, io parlo per il Veneto, i Veneti mi hanno affidato il Veneto, sono l'amministratore delegato del Veneto. Noi non abbiamo mai abbassato la guardia, la macchina è pronta. Qualcuno mi criticava perché a giugno, luglio dicevo noi stiamo schierando l'artiglieria pesante. Non è schierata l'artiglieria pesante. Sai, in questo paese è pieno di gente che sa come va a finire la partita, ma stanno in tribuna, non sono a bordo campo. La verità è che se qualcuno ha la sfera di cristallo è in grado di dirmi cosa accadrà domani, non fra un mese, domani, posso dire che noi lo assumiamo subito, nel senso che non abbiamo nessun problema. È un virus strano, è un virus che adesso, a differenza di marzo, continuo a dirlo, in Veneto mi dà 97% di positivi asintomatici. Se avessi avuto questo dato in marzo avrei avuto una situazione epidemiologica diversa. Non so che evoluzione avrà, nessuno ce lo sa spiegare, ci sono un sacco di teorie, a noi spetta solo di essere lì, perché siamo gli unici, peraltro noi governatori, a avere i pazienti fuori dall'uscio di casa. Zaia, la piattaforma Immuni, abbiamo letto cronache e ci raccontano che in Veneto sostanzialmente non funziona, non ha mai funzionato. Cosa risponde? Ma guardi, in Veneto noi ci mancherebbe, sarebbe veramente da dei poco di buono non dar corso all'applicazione, diciamo, alle applicazioni informatiche affinché chi ha deciso di scaricare Immuni abbia una interfaccia regionale. Ho avuto anch'io notizie in questi giorni, non siamo gli unici, ho visto che siamo in buona compagnia, ci sono altre regioni. Il mio servizio di Dipartimento di Prevenzione sta interloquendo da giugno per iscritto a livello nazionale con i riferimenti nazionali del Ministero. Il tema posto è questo: una persona che ha l'avviso di aver avuto tramite Immuni, sì, di aver avuto un contatto stretto, è una persona avvisata, ma in maniera differenziata. Quella persona, ad esempio, può essere stata semplicemente aver avuto il contatto di una persona che magari che si stava recando. Mi scusi, Zaia, ci conferma quindi che finora non ha funzionato in sostanza Immuni da voi? No, da noi c'è il problema dell'interfaccia, io spero che si risolva la prossima settimana, ma per qualificare il contatto che ci viene dato. Se il contatto è una persona che ha avuto, che so, un contatto con una persona che portava la mascherina e la visiera, che era un paziente o altro, cioè noi non è che possiamo fare tamponi a prescindere. Ma questo è un tema, diciamo, che non pone la politica, lo pone la prevenzione, e vale per tutti. Ma mi dice il mio capo della prevenzione, la dottoressa Russo, che già a giugno hanno iniziato a scrivere dicendo attenzione che arrivano degli avvisi indifferenziati, cioè come facciamo a rifare la ricostruzione e cercare e fare il contra-tracing in questi casi. Zaia, per chiudere, abbiamo fatto ascoltare poco fa un audio di De Luca che risaliva a settembre, alla prima metà di settembre, nella quale De Luca metteva una sua linea rossa, e questa linea rossa erano 1000 contagiati e 200 guariti, se non vado errato. Lei anche ha una linea rossa per far scattare misure più restrittive? E qual è? Guardi, noi abbiamo degli algoritmi, dei modelli matematici. Oggettivamente in questo momento i dati sono pochi per avere proiezioni serie. Poi chi dice che ha proiezioni? Sì, ci sono, ma sono tutte proiezioni che, diciamo, si rafforzano giorno dopo giorno avendo uno storico di dati. Dico solo un esempio: noi siamo arrivati a 400-500 persone in terapia intensiva ad aprile, avevamo una proiezione che ci dava il collasso della sanità veneta. E io le dico che per noi è fondamentale vedere le terapie intensive e i ricoverati. In questo momento siamo in una fase, diciamo, di semaforo arancione, ma non di semaforo rosso. Grazie Luca Zaia, presidente del Veneto. Buona giornata, buon lavoro. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo, come sempre con Paolo Mieli per il commento dei fatti della giornata. Poi avremo ospite Luigi De Magistris, il sindaco di Napoli, per parlare esattamente della Campania, il ministro Enzo Amendola, il ministro degli affari europei, perché nel frattempo è in corso il Consiglio europeo con tanti elementi importanti, Brexit e ovviamente il Recovery Fund, i soldi dall'Europa. Poco. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.